America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Yesterday, during a jam-packed day at the White House, he still took the time to complain to members of Congress about losing the popular vote. Donald Trump continua a tenere banco, lavora moltissimo, ha parlato ieri col primo ministro indiano Modi, ha incontrato i tre grandi dell'auto, ha litigato di nuovo indirettamente, forse questa volta con la stampa, per una questione di cifre. Ma quanti sono stati i voti fasulli nelle elezioni? 3 milioni, 5 milioni? Beh, questa è la cosa, devo dire, che ha fatto più sensazione e maggiore polemica a Washington. Ma di questo parleremo un pochino dopo, perché poi l'America va avanti su mille fronti. E ieri abbiamo avuto l'annuncio dei candidati ai premi Oscar, di coloro che si recheranno nella città delle stelle per tornarsene a casa con la statuetta. Sentiamo. La La Land ha raggiunto il record storico, ha avuto 14 nomination, inclusa quella per miglior film, migliore regia, migliore attrice, migliore attore protagonista, che sono poi Ryan Gosling e Emma Stone. Il regista Damien Chazelle aveva già vinto parecchi Golden Globe, 7 Golden Globe, ma la musica che vi ho fatto sentire, è uno dei momenti più commoventi di questo film. Questo è il tema ricorrente suonato al piano da Ryan Gosling ed è il momento in cui, non diciamo come va la storia d'amore, la sua storia d'amore romantica, vera, sentita, sofferta con Emma Stone. Film sicuramente da vedere, perché ci riporta a un'era romantica che, come dire, nel giorno per giorno, travolti come siamo da questa volgarità dei reality show, abbiamo perso il collegamento con la poesia. Hampton High School is a white school, Mrs. Jackson. Yes, Your Honor, I'm aware of that. You of all people should understand the importance of being first. Ecco, uno spezzone da Hidden Figures. Io ho parlato di questo film, sono tre scienziate che riescono a contribuire in modo determinato alla missione NASA di mettere un uomo nello spazio e dunque riconquistare il terreno perduto contro la Russia. Un film che ha come protagoniste tre attrici afroamericane. E dunque quest'anno, ricordate l'anno scorso, ci furono polemiche perché nessun afroamericano fu nominato per nulla. Ci fu addirittura una polemica Oscar to White, no? Una polemica su Twitter. Bene, quest'anno ci sono ben 6 nomination, a partire da Marshall Ali per Moonlight, Denzel Washington per Fences e Octavia Spencer appunto per Hidden Figure. Oh, la luna se La nota è stonata, ma il film ha avuto un discreto successo. Meryl Streep, protagonista, interpreta una cantante d'opera che, diciamo, non ha la voce migliore del mondo ed è Florence Foster Jenkins, una britannica sposata con un marito delizioso che è Hugh Grant. Film leggero, divertente, ma la notizia qui è che Meryl Streep ha incassato la 20ª nomination agli Oscar. L'Italia sarà presente con Fuoco a mare di Gianfranco Rosi sulla crisi dei migranti a Lampedusa, è stato nominato nella categoria come miglior documentario. Ma come vi avevo anticipato, veniamo alla politica e facciamolo con un passaggio dal mondo dello spettacolo alla politica che mi sembra molto appropriato. Saturday Night Live, grande programma del sabato sera, cioè da 30 anni, programma satirico. Ci sono appunto questi attori che fanno le imitazioni di leader, di personaggi famosi. Alec Baldwin, per esempio, fa un'imitazione straordinaria di Donald Trump. E qui Beck Bennett si è inventato il personaggio Putin. Putin che parla all'America, che interviene con delle pubblicità comprate dalla Federazione Russa. Sentiamo. Donald. Let's talk as friends. You're not off to a great start, man. Said 1 million people came to see you in Washington, D.C.? If you're going to lie, don't make it so obvious. Ecco, Putin che dice a Trump in televisione, dice, ma insomma non hai iniziato alla grande, pensavo che tu fossi più in gamba sul piano della comunicazione, sei andato alla CIA e hai detto che c'erano oltre 1 milione di persone alla tua inaugurazione. Insomma, Donald, se devi mentire, non farlo in modo così ovvio. Io lo faccio spesso, capita. Di che sei un amico di LeBron James. Non dire che sei LeBron James. Ecco, perché vi ho fatto ascoltare questo passaggio? Perché Trump, che pure lavora moltissimo, devo dire in questi due giorni si è dato molto da fare, ha questo punto debole, questa debolezza di voler sparare delle cose che poi non hanno un contrappunto nella realtà. E devo dire, nella società della comunicazione questo non lo puoi fare. Anche se sei Donald Trump, anche se molti ti credono, poi alla fine i fatti contano. E dunque ha detto che c'erano 1.200.000 persone alla sua inauguration, cosa non vera perché tutti i calcoli dimostrano che non c'erano, ma soprattutto l'altro giorno ha detto che se Hillary Clinton ha vinto la maggioranza del voto popolare, lo ha vinto grazie a un voto calcolato fra i 3 e i 5 milioni di criminali immigrati illegali negli Stati Uniti, quindi non soltanto di immigrati illegali, ma fra gli immigrati illegali quelli che sono criminali, che dovrebbero essere, secondo lui, espulsi immediatamente. Ecco, questa cosa è palesemente non vera, non è dimostrata, non è provata da nulla. E quando qualcuno ha chiesto ieri al portavoce, ma allora volete fare un'inchiesta? Insomma, lui era imbarazzato, dice, ma no, no, questo è quello che pensa il presidente e lo pensa grazie a documenti che lui ha avuto. Il presidente degli Stati Uniti sta claimando 3 to 3.5 million people voted illegally. It is the most inappropriate thing for the president to say without proof. Ecco, qui avete sentito il senatore Lindsey Graham, uno dei più importanti senatori repubblicani, il quale dice, ma insomma, se Donald Trump continua a far questo, danneggia la sua presidenza. È vero, è vero, è vero. Non capisco perché Donald Trump debba cadere in questo tranello di debolezza. Perché ieri ha visto i tre grandi dell'auto, ha ragionato con loro su come si possono costruire nuove fabbriche in America. Sergio Marchionne gli ha detto che aveva già investito in questi anni 9 miliardi di dollari, ha creato 25.000 posti di lavoro, continueranno a farlo. Tutti e tre hanno detto di essere stati molto favorevolmente impressionati dall'incontro con Trump e che lavoreranno con lui per rafforzare il settore manifatturiero. Beh, anche perché Trump poi gli ha offerto tagli di tasse, di regole, eccetera, eccetera, ma dall'altra parte minaccia tariffe piuttosto forti per le importazioni dal Messico. Ecco, come vi dicevo in apertura, Trump ha parlato anche col primo ministro indiano Modi, ha detto che ci saranno degli scambi straordinari sia economici che militari, che di alleanza con l'India. Ha invitato Modi a venire, tra l'altro, negli Stati Uniti entro l'anno. Dunque, da una parte Trump si sta muovendo, devo dire, bene, lavora molto, cerca di dar concretezza alle sue promesse elettorali, al di là del fatto che poi uno possa considerarle giuste o sbagliate. Dall'altra, dall'altra scivola su questa sua debolezza, che non è solo uno scivolone, perché i democratici che volevano lavorare con lui sul programma delle infrastrutture, dopo aver sentito questa rivendicazione che i voti di Hillary erano di 3 milioni, 5 milioni di criminali, che sarebbe un numero pazzesco, cioè non è sostenibile, hanno deciso di ritirare però la loro proposta, che guarda caso poteva andare a braccetto con quella di Trump e poteva consentire in tempi rapidi di raggiungere un risultato politico ed economico molto importante, quello del programma per le infrastrutture. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, vi ho detto, i tre grandi dell'auto hanno elogiato gli sforzi di Trump per rilanciare il loro settore. Dei Beatles, Drive My Car. Ask the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star of the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. I told that girl that my prospects were good. And she said, baby, it's understood. Working for peanuts is all very fine, but I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. Beep, beep, beep, beep, yeah. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.